patato per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. Eccoci. Il programma che si distingue per la qualità dei file audio che usa. Quando si trova la roba nella spazzatura, bisogna pretendere. Questa è, insomma, è DIY proprio. In realtà no, abbiamo avuto un bello spot, lo spot del giorno è stata la sigla delle fiabe sonore. Ah. Che io ascoltavo di terza mano perché erano i 45 giri di mio cugino, non sono così vecchia però insomma. E l'altra è Der Preis ist heiß, cioè la versione tedesca della nostra ben amata sigla d'antan di Ok, il prezzo è giusto. Che meraviglia. Quindi reperti oggi siamo stati, sì, sì, a scavare nella spazzatura del web. Merita, brava, hai trovato cose interessanti. E tutto questo perché? Sentiamo, perché? Nulla viene fatto per caso dalla signora Brusca. Esatto. E quindi abbiamo un tema scottante. Una materia da incubo. Vi parleremo del nesso tra la filologia germanica, ecco perché la sigla di Anche il prezzo giusto in tedesco, e i fratelli Grimm, ecco perché le fiabe sonore. Visto che la settimana scorsa ci siamo poi occupate di filologia romanza, a grosse gradinate, me la sono inventata così, proprio, sì, a dai, scaglioni. Sì, sì, oggi invece ci occuperemo brevemente di filologia germanica, perché effettivamente è una materia vastissima e molto molto complicata, perché praticamente il 90% è studio delle variazioni della fonetica, dei fonemi, nel corso dello sviluppo da antico germanico alle lingue che vengono parlate oggi, per cui effettivamente non basterebbe una stagione per parlare di tutto. Chiaramente. E io, come la settimana scorsa, farò semplicemente play, stop e Barbara D'Urso con affermazioni irrilevanti tipo sì, certo, giusto, ok. Abbiamo Costantino in linea, non me lo dici? Sì, In realtà non so nemmeno chi sia, cioè... Com'è? Un vecchio tronista di Uomini e Donne, forse il primo. Ok, penso. No, ma nemmeno, cioè, in realtà Barbara D'Urso non so bene un'identità. Non saprei riconoscere se entrasse adesso qui in studio, per esempio, no? Direi salve signora, che desidera? Ma come? Non mi riconosce, lei non sa chi sono io. E quindi insomma avrei un po' di difficoltà. Ma però, mi auguro che non arrivi mai. Non credo sia importante comunque continuare a parlarne. Quindi andiamo avanti, signore e signori. Signore e signori, scusate, stavo bevendo un goccetto. Ecco. Iniziamo, perché per parlare di questo tema bisogna essere belli, come per dire, forza, avere un po' di pelo sullo stomaco. Premessa, chiedo scusa venia per tutte le eventuali, come dire, per le eventuali incongruenze che ci potranno essere, perché abbiamo messo assieme due temi, anzi tre in realtà, perché parleremo anche di islandese. di cui ovviamente noi non siamo parlanti nativi, conosciamo una parte della linguistica e di conseguenza abbiamo fatto un po' dei ragionamenti. Iniziamo parlandovi del... Hai capito questa brusca, germanica. Sì, d'altronde sì. Insomma, la speculazione, il pensiero, i ragionamenti sono insomma, il nostro pane quotidiano, ecco. Allora, iniziamo un po' a dire che cos'è la filologia germanica. Praticamente è una materia strettamente connessa alla linguistica. Infatti, tra i suoi aspetti fondanti abbiamo uno studio della linguistica germanica, quindi di tutti quei tratti che determinano l'appartenenza di questa lingua, il germanico, alla famiglia appunto del tedesco, di varie lingue, alla famiglia delle lingue germaniche, in seno alla più vasta famiglia linguistica indoeuropea. Premessa che non abbiamo fatto la settimana scorsa. L'indoeuropeo, diciamo, è il bacino, è la madre di tutte le lingue che vengono parlate in Europa, a parte rari casi come il basco, il finlandese e l'ungherese, a grosse, diciamo, per lo più, perché hanno delle origini differenti. E di conseguenza, come le lingue romanze, anche le lingue germaniche appartengono alla famiglia linguistica indoeuropea. E a monte di questo ragionamento facciamo un'altra piccola postilla, cioè la linguistica storica, che in età viene formulata tra l'età romantica e l'età positivista, ha postulato l'esistenza di due protolingue, sempre all'interno del germanico, quindi l'indoeuropeo, da una parte, e dall'altra il germanico, per cui addirittura non siamo in uno stato di sottinsieme, ma siamo in uno stato proprio di convivenza tra queste due madri, diciamo, linguistiche. E, perché in entrambi i casi si tratta comunque di lingue inattestate, cioè quasi astrazioni che rappresentano poi la somma delle cosiddette invarianti registrabili poi nel complesso di quelle lingue storiche, che sono derivate anche da queste famiglie, nel senso molto più, come dire, banale, sono lingue inattestate perché non abbiamo particolari testimonianze scritte né dell'indoeuropeo e nemmeno del germanico antico, perlomeno. Come le altre lingue indoeuropee, possiamo dire comunque che le germaniche sono poi state ricostruite e diventate documentariamente attingibili anche a livello cronologico, e sono lingue flessive o sintetiche, cioè delle lingue che da un medesimo tema nominale, nome o verbale, verbo, con l'aggiunta di affissi, suffissi, desinenze, creano dei lessemi che hanno un significato lessicale nella radice, morfologico e sintattico, nel senso, per farvela molto più breve, che funzionano come il latino. Non hanno articoli, in buona parte dei casi, ma vengono declinate. Per cui il genere maschile e femminile neutro viene assorbito praticamente da un caso che è ridotto, che viene ridotto appunto in un fonema o in un lessema. E cosa dirvi? In realtà questo poi è un caso a sé per il tedesco. Oggigiorno facciamo conto comunque che nel germanico è compreso anche l'inglese, l'olandese, è compreso lo svedese, il norvegese, è compresa che cos'altro? L'austriaco, che è tedesco con qualche variante. E, e le lingue delle Faerore e dell'Islanda, più o giusto, meno, sì. Più o meno, perché il faerorense o faerorense, che tendo sempre a rimuovere dalla mia scatola della memoria, le Faerore, dove fanno sì. Quella cosa terribile che è la mattanza delle foche. Vabbè. E Quindi quello che stavamo dicendo era proprio che la differenziazione che è intercorsa nel passare dei secoli ha fatto sì che le lingue germaniche, oggi a parte il tedesco, mostrino la cosiddetta obsolescenza dell'antico sistema flessivo indoeuropeo, ovvero il tedesco ha conservato un tratto antico, come se noi oggi parlanti romanzi, diciamo, utilizzassimo ancora le declinazioni latine, e semplicemente poi sono andate, diciamo, perdendosi queste caratteristiche. E l'indoeuropeo infatti è una ipotetica protolingua, addirittura preistorica, che si è diffusa, come dicevamo prima, in una parte consistente dell'Europa, nata dall'India, si sospetta dall'altopiano iranico, e poi si è diffusa anche in alcune regioni dell'Anatolia, dell'Asia centrale e addirittura della Cina occidentale, anche se i tratti distintivi di questa lingua madre nelle zone asiatiche si è un po' andata perdendo. Con tutti i viaggi. Esatto, insomma. E è appunto classificabile come lingua flessiva o fusiva, a seconda insomma delle lingue che da esso derivano. Poi questi tratti si sono più o meno conservati. Brava, Pippone, bravissima. Allucinante, Pippone delle Madonne, vi meritate un io riposino. Io spezzerei subito così sto Pippone, ve lo meritate. Eccoci qua, Cocteau Twins, la Lorelai, o Lorelei, perché la pronuncia sarebbe la Lorelei. Chi era la Lorelei? No, Menia? Io scusa, sono un po' sconvolta perché ho avuto... No! Ho avuto una splendida notizia. Che ma no. Le ho dato io, uno storico bar di un pub di Firenze domani sera. No, vabbè, fa cioè, super offerta. Una super offerta di birra perché è il compleanno. Non è giusto. Ma non me lo, cioè non me lo dovevi dire. Infatti, detto non te lo dico. Perché io, sì, perché io dico. Sabato lavoro. E questa cosa non va bene. No, vabbè, ma. Ma invece senti, ora tu, io? Che sei tanto brava, io lo so che cosa vuoi fare. Vuoi trovare un pretesto per arrivare a parlare di loro. Di loro, esatto. Di loro la Lorelei non c'entra nulla. Dicci un pochino, che cosa vorresti provare a farci intanto a infilare nella discussione? Chi era la Lorelei? Qua si parla di mitologia. La mia coinquilina? No. Davvero? Davvero? Sì. Era la mia coinquilina. Ma Lorelei o Lorelai si faceva chiamare? Si faceva chiamare Lorelai, la pronuncia era Lorelai. Tedesca? No? No, italiana? Sì. Mitica. Forse sì. Calabrese addirittura. Lorelai! Sì, così, che bella. È un nome meraviglioso perché comunque la Lorelei o Lorelai è una delle ninfe del fiume Reno, anzi la fata, la ninfa del fiume Reno che ammaliava praticamente tutti i pescatori e i naviganti. E Apollinare ha scritto una poesia meravigliosa. Bella. Vabbè, cioè entriamo anche nel poetico. Nel franzoso. Prossima le novelle di Boccaccio. E poi domani, esatto. Dico, E poi domani sera si va tutti a bere birrini. Sì, bravi, certo. No, ci sono grossi impegni questo fine settimana, ve li ricordiamo più tardi. Sì, vi diremo dove saremo venerdì, sabato e domenica. Ma. Insomma, ora a parte questo tergiversare che mi è servito per rimettere in piedi la scaletta che ho smontato con un colpo di mouse. Troppo oneste. Sì, dai, bisogna dirlo. Io mi sento Noel Gallagher tipo stasera, sto parlando al microfono come il cantante degli Oasis. Oh, mamma. Vabbè. Allora, si diceva seconda tranche del nostro della nostra puntata. Guardate i come fratelli Grimm. Che cosa c'entrano? Ebbene, i fratelli Grimm c'entrano alla grandissima. Non solo perché sono stati dal punto di vista filologico proprio dei grandi, come dire, ricercatori, dal momento che le fiabe che noi abbiamo sono fiabe della tradizione orale, che sono state riscritte, ma hanno proprio avuto, anche da questo punto di vista, una risonanza molto grande dal punto di vista della linguistica. Sarà, ve lo dico, un argomento difficilissimo, io dirò un sacco di fregnacce, perché non parlo tedesco, ho studiato all'università queste cose, effettivamente sono molto interessanti, ma si parla quasi esclusivamente di fonetica, per cui cerco di farvela digeribile, ecco. Allora, comunque io continuo a ribadire che ci manca una musichetta di sottofondo. Sì. La settimana, chissà, vediamo, nelle prossime settimane magari la chittiamo. Sì, la prossima settimana ci vuole perché dato l'argomento bisogna rendere. Sì, dai, i nuovi obiettivi del nuovo anno scolastico, è come il capodanno de noi altri. Ecco. Sì. Stavo per dire una parolaccia di quelle proprio bam. No, la mamma non vuole. Un saluto alla mamma Franca. Ecco. Che tanto non mi ascolta mai perché dice che siamo noiose e scurrili. Lei ascolta Soul Time. Vedi, è anche scurrili. Sì. Una volta ci ha accusato, io mi ricordo bene. Vabbè. Ecco. Mamma, allora, all'inizio del XIX secolo la Germania era... E quando le frasi dei discorsi iniziano così, ragazzi, mettetevi a sedere davvero. Quando si parla di secolo. Ma male. Vabbè. Come dice no, Moretti, vai avanti. Ecco, vai avanti, no? All'inizio del XIX secolo, come tutti sappiamo, la Germania era frammentata in centinaia di principati. piccolissime nazioni che erano unificate, a differenza dell'Italia, tra l'altro, dalla lingua tedesca, in questo caso. E una delle motivazioni che spinse i fratelli Grimm a trascrivere le fiabe, come si diceva prima, che è comunque un retaggio culturale molto importante dei popoli di lingua tedesca, e soprattutto le stesse fiabe si ritrovavano in regioni diverse, era proprio quello di aiutare la nascita di un'identità culturale d'appartenenza germanica. Nulla a che vedere con nazismo, nulla di tutto questo, semplicemente mancava una coesione politica che si doveva poi tradurre anche in una coesione culturale. In particolare tra i due Grimm è Jacob quello più famoso nella linguistica per aver formulato una legge sulla prima mutazione consonantica, attenzione, detta anche legge di Grimm, o Erste Lautverschiebung in tedesco. È stato sicuramente pronunciato benissimo. Lautverschiebung, sì, penso di sì, vabbè. Nelle lingue, praticamente nelle lingue germaniche rispetto all'indoeuropeo, e più in particolare questo studio è stato fatto anche sull'evoluzione di alcuni dialetti tedeschi rispetto ad altre lingue germaniche. E questo studio, questa legge è stata anticipata da degli studi comparativi, perché di questo si tratta, cioè la filologia fa studi comparativi per cercare poi di trovare una matrice comune, un errore comune, un propagarsi di un fenomeno che porta a una soluzione generalmente, è un metodo scientifico. Ed è stato appunto anticipato da un filologo danese, che era Rasmus Rask, in un saggio che era sull'origine dell'antico norvegese o islandese, pubblicato nel 1819, ma scritto 5 anni prima. Ed è un saggio importantissimo per tutti gli studiosi di filologia tedesca, anzi germanica. Allora, questa legge di Grimm si basa sulla ricostruzione classica della fonologia dell'indoeuropeo, elaborata dall'unica scuola che l'ha trattata, che è la scuola neogrammaticale, sempre durante il XIX secolo, quindi una scuola contemporanea a Grimm. La legge di Grimm viene detta anche legge di prima rotazione consonantica ed è una legge fonetica, come abbiamo detto, che regola la modifica delle consonanti dall'indoeuropeo, quindi dalla lingua madre di tutti noi, il bacino comune, al proto-germanico. Cosa succede? Noi finora abbiamo parlato di germanico antico. Il proto-germanico, fate conto che è quello che abbiamo detto prima, quindi quella lingua che convive, diciamo, contemporaneamente all'indoeuropeo, e che ha dato origine a un sacco di lingue che, antiche, come il gotico, per esempio. Vedo la Nenia che no, rido per il prossimo MP3. Infatti, se sarete pazienti ad ascoltare questa pappardella, di cui io vi consiglio di farlo. No, ma sai, ieri veramente, guarda, mi sono sollazzata un po' sul divano e anziché guardare Sky, ho studiato una cosa molto particolare, si chiama prima legge della prima rotazione consonantica, ma lo sapevi che l'hanno scritta i fratelli Grimm, in particolare uno di loro, e così potrete finalmente godervi una giornata in piena solitudine, perché nessuno vorrà più rivolgervi la parola. Che cosa meravigliosa. Nessuno. Allora, va bene, resistete, perché il pezzo che c'è dopo è veramente divertente. Beh, davvero, dai, merita. Su. Allora, un incentivo per i pigroni. Esatto. Occlusive, se ricordate la puntata dell'anno scorso, sorde indoeuropee, che abbiamo tuttora nella nostra lingua, P, T, K, diventano in germanico, quindi appunto in questa lingua antica, fricative sorde. Molto semplicemente, F. No, non è propriamente una fricativa, ma vabbè. E la parola pater indoeuropea, la pronuncio perché nessuno ha idea di come fosse pronunciata, nessuno ha sentito, insomma. Viene, da qui deriva il gotico father, cioè questa D che è leggermente con la crocetta sì, è father, che è molto simile all'inglese. Le occlusive indoeuropee b, d, g, quindi sonore, diventano in germanica, in germaniche, sorde, p, t, k, quindi quelle che in indoeuropeo erano sorde si ritrovano al posto delle occlusive sonore, cioè insomma l'indoeuropeo quando ha le occlusive sonore diventano nel germanico sorde, quindi b, d, b, d, g, p, t, k. Le aspirate invece quindi b, d, g, che sono tipiche dell'indiano in realtà, noi non, e della Calabria. Sì, sì, è vero. In germanico diventano sempre occlusive sonore, quindi c'è una variante, si passa da sordo a sordo a sonoro, per farvela un po'. Quindi p, d, g diventa in germanico sonoro b, d, g. E un esempio costis in in indoeuropeo, scusate, mi sto perdendo anch'io perché è una roba che significa ospite, straniero, quindi tra l'altro bellissima questa cosa che gostis da straniero diventa anche significato di ospite, molto carina questa cosa, sì. Diventa in tedesco gast e il latino è hostis, quindi abbiamo una aspirata in latino, una sonora aspirata in indoeuropeo e invece nel proto o nel germanico diventa g, g, proprio bella sonora. Prendiamo la parola piede, nella sua, come dire, derivazione di delle lingue diciamo un pochettino più vicine al al tedesco, il gotico per esempio, che ha dato origine a tutte le parlate appunto tedesche e probabilmente anche a qualcosina di basta, perché l'inglese deriva da un'altra cosa. Si ritrova in tutte le lingue la parola fotus in tedesco, in gotico che ha dato poi origine alla parola fus, in islandese fotur, in danese fod, in norvegese e svedese fot e in inglese foot. Trova un corrispettivo, quindi abbiamo questa F, trova un corrispettivo sonoro, scusate, sordo, nel latino, per la prima legge che abbiamo detto, quindi l'occlusiva, no, mi sto sbagliando un'altra. È un casino. Insomma, è impossibile. Fateci caso, pes in latino, pod in russo, in sanscrito addirittura pa. Piede diventa in tutte le lingue germaniche F, quindi tutta questa pappardella per dirvi che Jakob Grimm si è messo lì a studiare fior fior di antiche attestazioni e forse anche le rune per cercare di comprendere per quale motivo in realtà il germanico e tutte le lingue del bacino germanico avessero delle variazioni così potenti rispetto a tutte le altre lingue che si parlano in Europa, perché se ci fate caso, noi diciamo piede, i russi dicono pod, nonostante tra noi russi ci sia veramente un mare di distanza dal punto di vista linguistico. Siamo lì. Utilizziamo forse una matrice comune, e invece chi parla una lingua germanica no. Abbiamo un esempio, abbiamo anche una documentazione una documentazione molto ricercata e seria per questa cosa, per dimostrarvi quanto è vero quello che vi diciamo, proprio un dialogo vis-à-vis per i più tenaci, per chi non ci, esatto, ha abbandonato, è arrivato qui il premio in totale solitudine, come dopo la messa di Pasqua finalmente arriva questo l'uovo, è il biscottino. L'uovo di Pasqua con la sorpresa. Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 chili, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier dell'Università di Jena. 11! Certo, 182! È molto Molto carino qui, eh? E poi allegro, mi piace. È molto che avete aperto qui questa, ma come? Fame. Ma cosa? Ma dove mi portate? Di nuovo, professor Birker. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birkin. Birkmeier! Birkmeier. Mi scusi, professor Birkmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma come? Niente mangiare? Scusi, professor Birkmeier, ma allora il cessetto lì a cosa serve? Al sesto giorno di cura, Fantozzi era lo stremo. E tu, Mattia, spacchetti, paffi neri? Come va? Bene, professore. Da quando tu non mangi più spaghetti? Io non me lo ricordo più. Sei giorni? Sei. Molto bravissimo. Per fare buona cura occorre grande forza di volontà. Va bene, professore. Chi non tiene volontà... Tu guardi? Per sviluppare grande forza di volontà, invito tutte le sere un tuo camerata a mia cena. Che faccio? Io mangio. Lui guarda, io mangio. Chi tocca il cibo caput? Lui non resistito. No. Rubate e mangiate piccola minuzzola di pane da mia tovaglia. Sì, però ho visto, insomma... Vuole tu essere mio ospite questa sera? Io la ringrazio, professore, ma questa sera ho mezzo impegno con una mia zia. E allora... Tu scrive il suo nome. Come nome? Quale nome scrive? No, guardi che... Non voglio... nome. Come zia? Professore? Vieni. Sei tutto? Prego, sei tutto? Dove tu siete? E dove mi ha detto? Qua! Perché mi ha detto? Lei mi ha detto. Qui, Ecco. Cosa abbiamo di buono questa sera? Cosa c'è di buono? Oh. Polpette di Bavaria! Cuore di patata, farina, aromi. Peccato tu non puoi mangiare. No. Quattro tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova. Tu ricordi tua camerata che ha mangiato? Un po'. Tenera. Si scioglie nella bocca. Guarda. Un boccone, un poppetto, un bicchiere di vino. Di vino del re. Della valle di Reno. vino di va. Vieni qui. Prendi che. Tu mangia. No. Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia tutto! Lui mangia! Le polpette. Polpette di Pafarria, lui mangia, sentite, è un po' appreso, diciamo, per i fondelli, ma alla fine, effettivamente, è come se... Lui mangia polpette di Pafaria, fosse insomma un pochettino comprovato da queste leggi di Grimm, che non finiscono lì, ovvero c'è qualcuno che a Jacob Grimm ha messo il bastone tra le ruote, che è addirittura un danese. A Firenze direbbero sana sega lui. Perché, ok, germanico, ma non tedesco. E che tu danesi. E quindi Werner, colui che mise i bastoni tra le ruote a Grimm, in realtà non è che gli ha messo i bastoni tra le ruote, semplicemente ha risolto un problema, ovvero c'è un gruppo complesso di apparenti eccezioni alla legge di Grimm che ha tenuto e tiene tuttora forse impegnati i linguisti, sicuramente per vari decenni è stato così, che ha ricevuto poi in realtà una brillante spiegazione da parte di questo linguista danese, tale Carl Werner, che si è accorto che queste eccezioni erano legate in realtà molto semplicemente alla posizione dell'accento in indoeuropeo. In realtà in indoeuropeo non si dice pater, come diremmo noi, ma era pater, perché appunto deriva dal sanscrito pitar. Infatti anche il greco è patei, padre. E da qui è derivata la forma gotica fadar. Quindi vediamo che c'è uno spostamento d'accento. A cosa corrisponde allo spostamento d'accento? Un cambiamento, come dire, un cambiamento fonetico. Pitar, fadar. Anzi, pitar, fadar. E Jacob Grimm non era riuscito proprio a spiegare perché le occlusive sorde dell'indoeuropeo si trasformavano in spiranti sorde nel proto-germanico, ma si trasformavano anche in numerosi casi in spiranti sonore. E questa scoperta di Werner, che era legata quindi, come abbiamo detto, all'accento, quindi allo spostamento dell'accento dal sanscrito indoeuropeo al germanico, praticamente insomma questa è un po' complicata, non so se annoiarvi, però insomma molto non è semplice. Dacci il colpo secco, vai, va ammazzo. Allora, il fenomeno di spirantizzazione delle occlusive sorde p, t, k del proto germanico derivate dall'indoeuropeo, per cui p, t, k diventano f, b e h, si riscontra quando si verificano contemporaneamente, secondo Werner, due condizioni. L'occlusiva indoeuropea si trova tra elementi sonori, una consonante nasale, una vocale, e l'accento libero indoeuropeo cade sulla sillaba immediatamente successiva, pitar. Quindi la consonante che si modifica è praticamente pretonica, pitart. E di conseguenza, in presenza di questi caratteri, avviene una mutazione. Le occlusive sorde diventano sonore. Quindi pitar, fadar, e non fabar, favar. Soprattutto favar. Non, allora, voi pensateci bene quello che vi sto dicendo. Io ho fatto un esame su queste cose nel 2009-2010, me le ricordavo perfettamente. Cioè sono riuscita a fare un esame, per cui ce la farete anche voi in realtà, se volete approfondire il discorso in diverse biblioteche di Firenze, trovate dei volumi legati allo studio della filologia germanica, oppure molto semplicemente potete sapere che tutto ciò che noi diciamo deriva da una matrice comune indoeuropea preceduta dal sanscrito, che è la lingua madre di tutto India, Europa e di tutto il firmamento. Esatto, e da cui si sono frazionate con delle differenze fonetiche altre lingue che sono state classificate in due macro insiemi. Il romanzo, simile ancora all'indoeuropeo e al sanscrito per quanto riguarda la fonetica, ma non gli accenti, e il germanico, totalmente dissimile, ma che conserva ancora il carattere del caso e quindi della declinazione. Basta. Signorina, che media c'ha lei? Un sospiro. Lo vuole un trentellone? Io vorrei un pezzo cantato da Blixa Bargel, visto che si parla di tedesco. Guarda, bellino. Mi sembra il caso. Sì. Tampopo. Für dich bin ich ein Löwenzahn, Tochter des Himmels, multipliziert. Eine blaue Blume, schwarze Tulpe, da scheiden sich die Gemüter, streiten die Gelehrten. Thank you. Ecco, probabilmente mi arriverà un gattino a breve e lo chiamerò Blixa, perché con un pezzo del genere, insomma, così. Io voglio prendere un criceto e lo chiamo Fantozzi. Perfetto, professore, non siamo, mi ricordo qual era il nome. Così. In effetti ci sta perfettamente, Fantozzi del criceto. Fantocci. E per il siamese finto, Blixa. Dai, onesto. Onesto. Ma invece quell'isola... Quell'isola felice, più o meno, non troppo. Beh, più di noi, secondo me, sì. Quell'isola felice che ha fatto un referendum per scegliersi il presidente, ragazzi. Carito. L'Islanda! Stiamo parlando dell'Islanda. Belli. Cosa c'entrerà? Come ma Fratelli Grimm. Se ci sono entrati i Fratelli Grimm, c'entra, secondo me può entrare qualsiasi cosa. Infatti, dopo c'è il paragrafo dello scolapasta. Così, che secondo me... No, molto semplicemente, non abbiamo parlato dell'inglese oggi tra le varie lingue germaniche. Non siamo così banali. Ecco, ma perché l'abbiamo già trattato in abbondanza nella prima stagione, almeno dal punto di vista di bistrattare. Di, insomma, noi bistrattiamo l'inglese, abbiamo parlato di questa cosa. Ma anche poi dal punto di vista di melting pot, di lingua veicolare ormai universale, che insomma l'inglese questo è. Oggi ci concentriamo su una lingua sempre germanica, decisamente conservativa, che è l'islandese. In realtà è una lingua fantastica, perché nel Medioevo, prima dell'introduzione della scrittura, in Islanda e negli altri paesi nordici come la Svezia, la Danimarca e la Norvegia, escludiamo sempre la Finlandia perché il finlandese non è indoeuropeo, si parlava il norreno. Che bello. Okay? E fin qua ci siamo tutti, che è arrivato, diciamo, a noi e anche in Islanda attraverso alcuni componimenti poetici, banalmente detti Skald. Il loro nome sarebbe Skaldskapur, cioè composti e recitati da questi poeti che erano gli Skald. E Kapur era il componimento, quindi il componimento dei poeti. E questi Skald hanno tramandato in modo decisivo parte della storia dei paesi nordici. E l'Islanda è un paese estremamente conservatore per quanto riguarda la sua lingua. E è un'isola, per cui è isolata, ma anche però una forte cultura scritta, che ha conservato in maniera eccezionale l'antichità della lingua che parlano oggi, che è rimasta immutata, o per lo più immutata, negli ultimi 1000 anni. E in particolare non solo nella versione orale, ma anche in quella scritta. Per saghe, cui, infatti, esatto, cioè, diffusissima. Loro sono ancora capaci di leggere l'Edda, che era il componimento poetico tipico islandese, sono ancora in grado di leggerla. Noi, se leggiamo l'Eneide, non ci capiamo niente, cioè, ma anche se avete studiato latino, ma nel senso, ma anche meno, appunto. Anche meno. E appunto, un islandese è tuttora oggi capace di leggere senza grandi difficoltà una saga scritta dai suoi antenati nel 1200. L'islandese lo trattiamo perché ha anche delle particolarità grammaticali che nelle altre lingue germaniche sono andate attenuandosi e che invece in questa lingua sono rimaste sostanzialmente invariate. E cosa simile ai francesi, ma molto più nobile per gli islandesi, è la grande attenzione che questo popolo ha a non introdurre parole straniere oltre lo stretto necessario. E nuovi termini vengono formati facendo uso da un vocabolario già esistente, e questo è proprio un tratto tipico dell'islandese, che si differenzia da tutte le altre lingue nordiche, eccetto forse un pochettino dal punto di vista della flessione per quanto riguarda il tedesco. E la parola AIDS, che tutti noi nel mondo usiamo, è un acronimo però di una serie di parole inglesi, loro la chiamano Alnem, non so se l'ho letto bene. Non lo sapremo mai. Che è un composto di A, che significa tutti, omni, completa, e nem, che significa sensibilità, quindi sensibilità a tutto. E computer è tolva, che è una radice modificata per metafonia del verbo tala, che è calcolare. Quindi come i francesi che hanno l'ordinateur, loro hanno il tolva, che non è un mobile IKEA. Sì, infatti sembrava pochino, eh. E volevamo farvi sentire un pezzo, ma prima di farvelo sentire chiudiamo il discorso sull'Islanda, che è quello su Laxness, ovvero è il piccolo Grimm tedesco Laxness, ecco. Non c'è linguistica, non c'è nulla in tutto questo, nel senso, se i fratelli Grimm, in particolare Jacob Grimm, per la lingua tedesca, per il germanico anzi, è stato importante perché ha praticamente codificato, seppur in maniera erronea, o perlomeno non erronea, ma tralasciando e lasciando alcuni punti interrogativi sul suo operato, è stato comunque in grado di darci una progenie, diciamo, anzi una pre-genie di quella che è stato il tedesco e di come si è differenziato, anzi tutte le lingue germaniche si sono differenziate da quello che è l'indoeuropeo e da tutte le altre lingue romanze. E Laxness, che è invece addirittura, ok, uno scrittore, un romanziere islandese che ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1955 perché la sua opera epica ha rinnovato l'arte e la letteratura islandese. Lo chiamiamo il piccolo Grimm, cioè, capito? Mica. Lui tra l'altro ha scritto un romanzo bellissimo che si chiama L'onore della casa. Vi consiglio di leggerlo perché è molto semplice, è stato tradotto in italiano benissimo e racconta proprio come la civiltà contadina islandese si sia adeguata al progresso tecnologico e come i loro usi e costumi siano cambiati in maniera totalmente naturale. Sono islandesi, dentro. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Insomma, questo Laxness è stato un grande teoretico, senza saperlo, della lingua scritta islandese, perché ha praticamente dal 1920 al 1960 ha prodotto romanzi e racconti ogni anno. E perché sappiamo che insomma dall'Edda Skaldica, che è il primo romanzo epico messo per iscritto nel 1100, dobbiamo tenere conto del fatto che prima di essere messi per iscritto tutte le storie, tutta la tradizione poetica islandese era orale. E quindi Laxness ha rivoluzionato conservato al tempo stesso quella che è l'invariabilità della lingua islandese, sia dal punto di vista scritto che orale. E per questo, insomma, è l'islandese è un fossile vivente come lingua. È un piccolo genio. E lui che l'ha tenuta viva. Esatto, sì. Senza fare studi linguistici, semplicemente io continuo a scrivere ed è probabilmente uno dei pochi scrittori islandesi. Per cui... Per cui possiamo dire che la nostra fiaba sonora della giornata è finita. Ah, sì. Ed è il caso di concludere con un gingolino, ce lo siamo meritato. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Ma quanti erano stonati, una cosa inascoltabile. No, sono bravi. Sono caratteristici. Sì. Che bravi. Finito, ragazzi, bravi, avete tenuto botta. Siete stati bravi, avete tenuto botta, brava, mi hai levato le botte di bocca. E siamo arrivati alla pagina degli appuntamenti. Chissà che schifezze avrete cucinato ascoltando la nostra trasmissione. Juster Krausi, butta via. Appuntamenti, noi ne diciamo uno solo, il più importante di tutti, dove ci troverete presenti dal venerdì alla domenica. Signore e signori, non potete non venire, perché venerdì 22, sabato 23, domenica 24... al come si chiama adesso? Obiol. All'Obiol c'è la fantastica vetrina dell'editoria e delle culture anarchiche e libertarie. Praticamente voi entrate venerdì alle 17 con la conferenza stampa e uscite da lì, se sopravvivrete, la domenica alle 19:10 con una presentazione di libri. Fate un po' voi. Ci sarà di tutto, presentazione dei libri, la radio, cose simpatiche, chiacchierate varie, che dire, libri, vabbè, ovviamente vedrai. E noi? Noi saremo lì a fare delle interviste ai personaggi che ci degneranno di un po' di confidenza. E questo è quanto. E quando uscirete potrete anche voi urlare come Fantozzi: ma allora mi hanno sempre raccontato un sacco di stronzate. Oh, andrà proprio a finire così, preciso. Quindi non vi dirò altre news, altri volendo appuntamenti, perché vi vogliamo tutti lì. Sì, fondamentalmente. Giusto per chi non ha nulla da fare questa sera, siamo stati informati che al Next Emerson di via di Bellagio c'è un bellissimo concerto rock and roll con ben due gruppi provenienti dagli Stati Uniti, di cui ignoro il nome, o perlomeno forse non me lo ricordo, non ho nulla sotto per dirvelo. Però da internet, lo Next trovate, Emerson, insomma, stasera, pagina Facebook, tutto quanto, accorrete numerosi, perché secondo me, non so se noi faremo in tempo ad andare, d'altronde siamo due donne molto anziane, occupate e stanche, però accorrete numerosi, perché molto probabilmente sarà un bellissimo concerto. Poi lì le serate sono sempre molto carine, ecco. Quindi anche di giovedì andate e basta, che dire. Io farei partire baci, abbracci e gli ultimi saluti. Tanti baci, ci lasciamo con un pezzo islandese. Abbiamo anche degli ospiti in regia, che bello. Prima o poi anche lui, il signor con la maglia sgorgo, sarà anche lui nella radio. Sì, per forza. Questo pezzo è islandese e, non sto scherzando, è scritto Lagnetti. Chissà. Lagnetti. Chissà. È una, ovviamente la trashata, abbiamo fatto una puntata mega seria, adesso parte il momento. E mo ve tocca. Ve tocca. Ciao, ciao, ci vediamo giovedì. Bye. Hver þig ástin mín, Reinath stand up in, and vain.